Sono intervenuta con il comunicato non tanto a seguito dell'ordinanza, che era attesa e anticipata e conosciuta anche nei tempi e nelle modalità dalla società sportiva, piuttosto a seguito di quello che è avvenuto ieri a Palazzo del Corso, insomma, che a me è dispiaciuto molto che sia arrivato un attacco di questo tipo da una società sportiva con la quale sto parlando da molti mesi. Ci sono stati incontri, ci sono stati confronto, dialogo, proposte, quindi insomma alternative poste sul piatto. Quindi diciamo che dal punto di vista non solo personale ma anche istituzionale mi è dispiaciuto un attacco di quel tipo in consiglio comunale. L'ordinanza è un atto dovuto perché è stato certificato un aumento molto importante, molto elevato dei decibel, peraltro una situazione che espone la stessa società sportiva a conseguenze di carattere giudiziario che si cerca sempre di scongiurare da parte dell'amministrazione, e quindi è anche a tutela non solo della persona che ha fatto l'esposto e che è stato accertato questo notevole aumento dei decibel, superamento del limite, ma anche a tutela della società sportiva, come è stato spiegato ieri pomeriggio. Peraltro è una norma posta a tutela della salute questa. In quel posto lì, insomma, quell'attività non è compatibile con poi le case che ci sono sopra. Esatto, sopra c'è un condominio e si è rivelato un posto che la Bolognina Box, chiaramente in totale buona fede, ha pensato fosse un posto dove ci si potesse fare questo tipo di attività. Purtroppo, come loro stessi si sono trovati di fronte a questa situazione, si è rivelato inidoneo a ospitare quel tipo di attività, perché mi hanno spiegato che hanno anche fatto dei preventivi per un'eventuale insonorizzazione che portasse a sotto il limite consentito, ma oltre a essere antieconomici non gli sono stati consigliati. Ma questo è un percorso che abbiamo seguito insieme, insomma io stessa avevo anche insieme a loro ho provato a capire con i tecnici, effettivamente questa è la situazione, quindi è un luogo che purtroppo non si adatta alle esigenze della loro attività prevalente, che è appunto fare box. Con Bolognina Box da molto tempo insomma è in corso un'interlocuzione con voi, con il comune, per trovare una sede alternativa, però al momento non l'avete trovata. Ma diciamo che c'è un impegno costante del comune di Bologna in senso generale sullo sport sociale e sullo sport popolare, che non è mai mancato. Non è mai mancata la mia disponibilità a incontri in ufficio, presso la palestra, sopralluoghi in zone che potrebbero essere, che loro avevano chiesto di visionare. Bisogna capire che risposta ci si attendeva, cioè un conto è dire non c'è stata disponibilità a confrontarsi, un conto è dire non è stata trovata la soluzione per come ce l'aspettiamo noi, che è legittimo, è una frustrazione legittima da parte di una società che rischia di perdere uno spazio. È anche vero però che il comune, bisogna sfatare un po' questo mito, non ha degli spazi pronti, non dispone di spazi che con la bacchetta magica sono pronti all'uso, in questo caso in un quartiere o due, cioè loro hanno fatto appunto la richiesta avendo il bacino di utenza prevalente tra San Donato San Vitale e Navile di quella zona. Una metratura ben determinata delle caratteristiche per fare box, è chiaro che il comune non è che ha degli spazi che sono vuoti e che non vuole dare o che non utilizza. Ad oggi, nell'immediato, non ha, e questo da mesi, non ha uno spazio come quello che hanno richiesto loro. Su questo poi faccio un'ulteriore precisazione che è importante fare, perché siamo in una città e come tutti gli enti locali ci sono delle regole anche rispetto agli spazi. Non è che se domani c'è uno spazio pronto il comune può decidere di dire bene, lo mettiamo a disposizione di questa società perché ha bisogno e ce l'ha chiesto, perché io da ottobre, da quando ho assunto questa carica, ho ricevuto almeno una ventina di società sportive che chiedono spazi, perché è un'esigenza sentita di spazi sportivi, ma il comune non ha pronti degli spazi da mettere a disposizione secondo le esigenze richieste. E quindi in questo caso cosa avevo proposto io? Mentre cerchiamo di capire in quanto tempo eventualmente si può trovare uno spazio, che poi dovrà passare chiaramente dal punto di vista delle assegnazioni delle regole tramite bando o con la riforma dello sport che partirà il 1 gennaio 2023, ci potrebbero anche essere ipotesi di assegnazione diretta a fronte di investimenti, insomma con gli strumenti normativi a disposizione. È chiaro che io nel mentre avevo proposto una soluzione ponte, che non voleva essere una soluzione definitiva ma provvisoria, per non lasciare la Bolognina Box neanche un giorno nell'impossibilità di allenarsi. Oggi pomeriggio faremo questo incontro con la società che si era dichiarata disponibile a capire se ci fosse la possibilità di condividere lo stesso spazio, che è la Sempre Avanti, che chiaramente ringrazio per la disponibilità, e questo incontro avremmo potuto farlo il 1° di giugno. Capisco che nel mentre la Bolognina Box abbia cercato di capire se si trovasse uno spazio definitivo, e quindi oggi noi ci rimettiamo a quel tavolo dove ci saremmo potuti sedere il 1° di giugno, ma insomma non è questo il punto. Adesso siamo tutti qua per trovare una soluzione, il dialogo è aperto, io sono sempre stata disponibile, continuo ad esserlo. Chiaramente un atto dimostrativo come quello di ieri a me è dispiaciuto molto, perché è stato fatto nei confronti di un'amministrazione che non ha chiuso le porte o ha detto non vogliamo metterci al tavolo, ma ci si è messa con mani e piedi cercando assolutamente di dare delle risposte. Ecco, questo è un po' quello che è successo in questi mesi. Poi ripeto, capisco il legittimo dispiacere di chi si è visto arrivare un'ordinanza che era però un'ordinanza di un percorso che loro conoscevano, perché abbiamo affrontato insieme nelle varie spiegazioni. Ieri probabilmente hanno avuto la spiegazione definitiva da parte del referente dell'ufficio ambiente, che ha spiegato tecnicamente perché si è arrivati a quell'ordinanza di questi giorni. Insomma, 20 richieste insomma di spazi sportivi, quindi testimoniano un bisogno forse anche crescente, no, nella nostra città su questo tema. In futuro il comune lavorerà? Testimoniano da un lato il bisogno crescente in questa città di spazi, che in parte la risposta può arrivare anche dalla riqualificazione che noi abbiamo messo in piedi e che metteremo in piedi anche con i fondi del PNRR per i nostri impianti che già ci sono, all'interno dei quali si possono trovare spazi nuovi, si possono trasformare spazi. Da un lato però testimoniano anche il fatto che fino adesso il comune ha utilizzato al meglio gli spazi in suo possesso dal punto di vista della destinazione sportiva, perché se no, mi viene da dire con una battuta, ne avremmo da proporre. Quindi sicuramente c'è un lavoro da fare che non riguarda solo gli spazi sportivi in città, domande arrivano anche per quanto riguarda associazioni culturali, di volontariato, spazi per l'abitare, cioè ci sono vari percorsi in atto. Uno delle cose che si può fare ad oggi è appunto riqualificare gli spazi esistenti per renderli più efficaci e anche maggiormente polifunzionali, perché sempre di più funzionano, e dall'altro chiaramente se riusciremo anche a lavorare su ulteriori spazi col settore patrimonio lo faremo, fermo restando che quella è sicuramente la cosa un po' più complessa da fare proprio dal punto di vista della disponibilità, ecco, ma questo si può facilmente intuire. Certo. Però da parte mia ribadisco la massima disponibilità come c'è stata fino ad oggi, il dialogo è aperto, io sono sempre per sostenere, e lo stesso il sindaco e tutta la giunta, lo sport sociale popolare, e per non far mai mancare l'appoggio e il sostegno a realtà importantissime. Tra l'altro io sono di San Donato San Vitale, è il quartiere dove sono nata e dove vivo, la Bolognina Box la conosco, so quanto importante sia il lavoro che fa per ragazzi, atleti che sta portando avanti da anni, quindi da questo punto di vista su questo non ci deve essere alcun dubbio o alcun pensiero che sia differente da quello che abbiamo sempre cercato di far capire, di far passare, ecco, questo è importante.